Mi sembra altresì importante calare la questione del ruolo del padre all'interno di un discorso un po' più ampio che riguarda il ruolo genitoriale, ma ovviamente con un taglio dedicato all'esperienza paterna e al problema connesso della responsabilità educativa, che certamente entrambi i genitori condividono, ma che poi si attualizza con modalità differenti per la naturale diversità, su cui poi proverò a fornire un qualche contributo in ordine alla, diciamo, differenziazione tra codice paterno e codice materno, no? Che è un po' iscritta nella, un tempo si diceva, nella natura delle cose. Oggi questo discorso sembra un po' singolare, perché non si sa se c'è più natura delle cose, se esiste una oggettività tale che sia distinguibile, mentre per noi rappresenta un punto di riferimento ineliminabile. Come stamane si diceva, è una questione culturale che bisogna affrontare, perché altrimenti, come dire, alcune coordinate si perdono, e perdendo le coordinate poi si va un po' a tentoni. Dicevo questo perché un po' l'esperienza a cui prima si faceva riferimento, che ho maturato sul campo a motivo della partecipazione a queste attività di orientamento familiare, devo dire che ha rappresentato un angolo di osservazione privilegiato, perché al di là della teoria poi la prassi mostra tutta una serie di problematiche che non rispetto al passato, se son di più o se son di meno, poi magari i problemi più o meno sono sempre gli stessi, cambiano gli scenari, cambiano le situazioni, cambia il modo di approcciarsi. E allora per questo proverò a suddividere questo mio intervento in alcuni passaggi che partono necessariamente, a mio giudizio, per poi poter comprendere un po' meglio il tema specifico del ruolo del padre, in ordine ai rapporti tra famiglia ed educazione. E direi che qui, prendendo un po' spunto da alcuni autori che si sono occupati di queste tematiche, ci sono delle cose che nella vita non si possono sbagliare. O meglio, poi può capitare che si sbagli, ma si dice sempre si ha necessariamente la possibilità di recuperare. No, parafrasando, un pilota aereo non può sbagliare nessun atterraggio, perché se commette un errore nell'atterrare probabilmente non ci sarà per lui e per i passeggeri una seconda opportunità. Alla stessa maniera, ma l'affermazione ovviamente non è assoluta e non vuole essere, come dire, non vuole immaginare uno stacco, un taglio, un genitore non può sbagliare l'educazione di nessun figlio in via di principio. Poi, come dire, può capitare, perché ci può stare, ma questo fa parte della realtà, cioè degli accadimenti per come si presentano, ma in via di principio bisogna avere un'attenzione particolare rispetto a questo problema, che poi è, come vedremo, il problema fondamentale della nostra esperienza familiare. E se la famiglia è per noi il luogo primario di realizzazione, quindi per noi, per il coniuge e per i figli, è evidente che la nostra attenzione particolare deve essere dedicata a quest'ambito. E allora, da questo punto di vista, io riferisco di un'impostazione del problema che può avere una diversità di approcci, ma io qui ne indico due, per provare poi a riflettere sulle indicazioni che sono ricavabili da questi due spunti. E riprendo tre citazioni che nel tempo sono diventate abbastanza celebri, che appartengono ad autori molto diversi tra di loro e che però a mio giudizio sono molto efficaci con riferimento al tema dei rapporti tra la famiglia e la questione educativa. La prima e di Gaetano Salvemini, secondo il quale un cervello ben formato sarà sempre un cervello ben fornito. Qui è evidente che nel gioco di parole si comprende come la prospettiva, diciamo, della formazione sia una prospettiva centrale anche nella prospettiva familiare educativa. E poi, come invece ricordava Plutarco, lo spirito non è un vaso da riempire ma un fuoco da accendere. Anche qui la componente spirituale, che in qualche modo noi talora sovrapponiamo e confondiamo con la componente emotiva, ha certamente la sua rilevanza in ambito familiare, soprattutto nei rapporti, diciamo, al di là di quelli coniugali, nei rapporti con i figli, dove la partecipazione emotiva diventa un fatto centrale di coinvolgimento dei figli nella propria dimensione di vita. Poi ce n'è una terza, che in qualche modo appartiene forse più all'approccio sociologico e che in qualche modo è spendibile un po' più facilmente, che risale ad uno degli esponenti della cultura contemporanea più significativi, perché si sono occupati, diciamo, fondatamente e appropriatamente di questioni che hanno a che fare con l'educazione e con l'educazione delle nuove generazioni, Edgar Morin, secondo il quale meglio una testa ben fatta che una testa ben piena, perché nella trilogia di lavori che lui ha sviluppato nel tempo, questo è il dato centrale che molte volte anche noi nell'approccio con i nostri figli un po' trascuriamo, magari, come dire, martellandoli con tutta una serie di indicazioni che sono un po' tra l'informazione e l'obbligazione, per così dire, no? Mentre magari, ma molte volte in perfetta buona fede, anzi tendenzialmente in perfetta buona fede, rischiamo di sovrapporre invece ad un modello formativo. Poi il contenuto, come dire, verrà conseguenzialmente e sarà anche opera loro, no? Piuttosto che in qualche modo occupare noi tutto lo spazio con una tendenza acquisitiva che magari ciascuno di noi riconosce in sé. E allora qui vorrei, come dire, affrontare il tema richiamandomi a tre parole che in qualche modo potranno fare da guida in queste riflessioni. Il primo termine è quello di genitore, no? Che in fondo è un po' il presupposto fisiologico rispetto al modello familiare e al problema educativo rispetto ai figli, anche perché i naturali destinatari sono i figli. Il termine persona, perché anche i nostri figli sono persone, o forse più esattamente, noi abbiamo la grave responsabilità di farle crescere come persone, e diremmo, aggiungendo un aggettivo, come belle persone, secondo un principio che anche questo mi sembra molto interessante, dovendo lavorare non per un figlio perfetto, che non esiste, ma per un figlio migliore, che invece è possibile, così come è possibile per noi, perché non esiste il modello del genitore perfetto o del coniuge perfetto, ma esiste, come dire, una prospettiva che rappresenta un iter di sviluppo in cui ciascuno di noi ha una concreta possibilità di migliorare. E poi la prospettiva, come dire, educazionale, il cui ovviamente destinatario principale sono i figli, che però è una prospettiva che segna, come dire, un cammino anche qui, cioè c'è un punto di partenza che in fondo è la nascita di un figlio, e poi il punto di arrivo magari noi non saremo in grado di percepirlo fino in fondo, perché per la semplice ragione che la vita è di nostro figlio e non ci appartiene, mentre molte volte noi corriamo il rischio di, come dire, utilizzare una tecnica appropriativa, poi faremo un passaggio specifico su questo, a proposito della divergenza di vedute e della divergenza di approccio rispetto a certi problemi. Noi abbiamo il nostro figlio ha il proprio, e qui poi inizia, come dire, il problema dello scontro, della contrapposizione. Oggi si faceva riferimento a un fatto specifico, no? La figlia che va a convivere, ma le situazioni possono essere le più diverse, il risultato è il medesimo, lo scontro, come si lavora rispetto allo scontro e che cosa si può fare perché in realtà lo scontro diventi un'opportunità, quindi si trasforma in un fatto positivo, mentre il primo approccio, che è quello tipico dello scontro, è un fatto negativo, la contrapposizione è, come dire, diciamo, morti e feriti dappertutto, ma nessun risultato utile per nessuno dei due contendenti. E allora, provando a comporre, diciamo, questo puzzle tra genitore, persona ed educazione, in questo contesto riusciremo poi a sviluppare un po' meglio i contorni della figura paterna. Un primo passaggio che mi sembra utile svolgere riguarda la figura genitoriale. Che cos'è la figura genitoriale? Che cos'è innanzitutto per noi? Ovviamente noi possiamo avere il nostro modello, ma come questa figura genitoriale viene percepita all'esterno? Ovviamente chi è che la percepisce per primo? Il figlio. Al di là poi del rapporto che vi possa essere con l'altro coniuge. La figura genitoriale può essere definita espressione della naturale funzione formativa della famiglia. Anche qui, l'idea che la famiglia abbia o debba avere una funzione formativa ormai è diventata un optional, cioè nel senso che Siccome non si sa neanche più bene che cosa sia una famiglia, e questo purtroppo deriva da sollecitazioni esterne e confusioni generalizzate, è evidente che non sapendo qual è, diremmo in termini forse un po' banali, l'identikit della famiglia, è chiaro che nessuno riesce a capire poi quale funzione la famiglia debba svolgere, perché se non mi riconosco neanche io come famiglia, figuriamoci se riesco a capire qual è il mio compito. Eppure la famiglia ha una funzione formativa che non è sostituibile da altri.